Yo, 2011, nuovi stili EP, DJ Nervo, yo man. Yeah, yeah. Ogni volta c'è qualcosa che non va, c'è sempre un motivo e vestita alla metà. C'è sempre qualcosa ma sta cosa non si sa, la tua base è noiosa, ma che ci posso fa? Parli dei stile ma dei stile non ce l'hai, se ci sono stile guarda meglio se te dai. Dai dai, dai dalla via, segui me nella stanza mia. Dai è così, famo tutto quanto, dai e baby che stasera se non schianto. So più fuori dei sinceri, oh mia lady, guarda io sono pronto, are you ready? E mi chiedo ma cosa cazzo credi, ti stupisco un'altra volta e poi mi dici ambedi. Ambedi sono arrivato per sconvolgere la scena, guarda sono arrivato e sono venuto sulla schiena. Ti sei frascicata come un fumo in piena, però questa tipa quanto cazzo se la mena. Però ha fatto bene a lasciarsi andare, perché questa sera avevo voglia di affogare. Ok ora stai bene dove stai, sei solo una bitch quindi non mi riverrai. Non voglio stacco una che il cuore ne calpesta, queste puttane hanno troppi cazzi per la testa. Vedo in culo, ora vi in culo, ora te in culo, ora che fai? Se tu dai il culo al primo passo sicuro, però è bello duro, che fai non lo dai. Ora te lo dico e qui non sono comico, il culo lo darei solo in senso metaforico, e ora ci sei chiuso come teorema di Pitagora. La tua tipa me l'ha dato ma non era una metafora. Ok vedo in culo e sta scappocciato, sto beat di Genervo che mi sta gasà. Che fa madonna mo si dà ma balla, sganciami la base che mi mette a rapa. Qua c'è una pezza che mi sale, non esiste più un giorno senza una presa male. Ma è normale, ogni giorno è così, ogni giorno vuoi esortà, pedate da qui e diventare sempre più conosciuto e lasciare ogni stronzo brutto in culo muto. Vedo in culo e questo si sa, c'è già gente che per me potrebbe pure non capà. Sì infatti ma che minchia c'è se fa, c'è solo gente precia, mica sta a giocare. E ce lo sai che non te conviene, parla male degli altri se nessuno ti sostiene. Dai e sparate, tagliate le vene, così almeno una volta farai una cosa bene. Mi sono rotto il cazzo di tutti questi coglioni, così come tutti sta profittoni. Non rispetto né te né anche la tua vita, se la vivi ogni giorno come un parassita. Che cazzo spari, cosa lo fai a fare? Tanto te do in culo, non mi puoi fermare. Vedo in culo, ora vi in culo, ora te in culo, ora che fai? Se tu dai il culo al primo passo sicuro, però è bello duro, che fai non lo dai. Ora te lo dico e qui non sono comico, il culo lo darei solo in senso metaforico, e ora ci sei chiuso come teorema di Pitagora. La tua tipa me l'ha dato ma non era una metafora.